Prima ti voglio dire che mai avrei pensato di incontrarti o di farti venire a casa mia. Ma siccome Nicola è un amico, ed è pure nipote di Pietro che tu conosci, Nicola ci tiene tantissimo a te, appunto che mi ha convinto di farti venire qua oggi. E tu sei qua per questo. Tu non sei qua perché sei tu. Tu sei qua perché sei lui. Prima di parlare ti voglio dire una cosa. Fra me e te c'è un dirupo, un fosso grosso, e quindi per passare ci vuole un ponte. E siccome a me mi piace parlare chiaro, io ti parlo chiaro. Tu sei nipote di Totò Cencerillo, il quale Totò Cencerillo e altri sono venuti a cercarci per ammazzarci, senza che nessuno gli avesse fatto niente. Ci hanno cercato e ci hanno trovato, ma non siamo stati noi a cercarli. E quindi si è creata questa situazione di lutti e di carceri. Ma la responsabilità è di tuo zio e compagni, se ora ci sono morti e se ci sono carcerati. Quindi io ti dico che non c'è differenza fra voi che avete morti e la gente che ha i familiari in carcere per sempre. Perché sono morti vivi o sono già morti. Tuo zio è venuto fino in casa nostra per scipparci la testa, senza che nessuno gli avesse fatto niente, per una questione di denaro e di potere. Io di personale non ho niente, ma i tuoi familiari litigavano con tutto il mondo. Io di personale ho una cosa, che avevate messo pure a me nella lista. Ora, quelli che mi avevano messo nella lista e quelli che fanno parte della lista devono fare una sola fine. Ma Nicola dice che tu sei una brava persona, un bravo ragazzo. Allora tu a stare al tuo posto. Devi stare nella tua casella senza scavalcarla mai. Fra me e te c'è un vadrone. E sto vadrone l'ha costruito tuo zio, non noi. Quindi non è che ci possiamo unire. Perché tu non ti chiami Inserillo, ma sei Inserillo. La curiosità è l'antecamera della sbigiatudine. Io sono alto 1,61 nella tessera. Misurato l'altro giorno in carcere sono 1,59. Se uno dice di conoscermi e poi sbaglia di 10, 15 o 16 centimetri, qui ci sono accuse infamanti, tragedianti, accuse fuori dal normale. 15 centimetri per un uomo è come un metro. Scusasse, presidente, se mi alzo, ma questo è quanto è alto Salvatore Sina. Io non ho dato mai nessun ordine di uccidere trasversalmente a nessuno, perché a me non mi ha mai fatto male nessuno. Ho sempre lavorato per me e per la mia famiglia e non ho mai avuto ingranaggi con queste persone. E non diciamo la latitanza. Io in realtà... A me non mi ha mai cercato nessuno, a me non mi ha mai fermato nessuno, a me non mi ha mai detto niente nessuno. Ma se alla Torre, Reina e Mattarella, ma qui ci sono cose politiche, dovete cercare altrove, dovete guardare in alto, non dovete cercare a me. Io non sono un politicamente e non volevo pigliare il loro posto. La mia è una famiglia modesta, a mia moglie e i miei figli non sono abituati a fare la bella vita, ad andare al ristorante. Io sono stato assolto a un processo a Bari per associazione, a un processo a Genova per aver ucciso il procuratore Scaglione, a un processo a Reggio Calabria per aver ucciso il giudice Terranova. E sono tanti i processi dove sono stato assolto. Se invece di avere 2, 3, 4, 5, 6, 10 processi, io ne avrebbe avuto uno solo, a quest'ora sarei un libero cittadino. Non conosco a Michele Greco. Non conosco Provenzano Bernardo. Non conosco Geraci Antonino. Non conosco a nessun Giancimino. Non conosco a Stefano Bontate, Salvatore Contorno, Giuseppe Marchese, non lo conosco. Conosco Aldo Luca Bagarella e picchia mio cugnato. Non ho più nessun conto da regolare con la giustizia. Sono la mia presenza a fare parte di Cosa Nostra nel 1990. Sono stato aggregato, diciamo, a Nogrodi, sarò secondo una giustizia. Io sono uscito il primo. Ti seguo finché sei da bambino, ti crescono, ti allevano, ti insegnano a cercare, ti uccidono, ti amici miei, cioè praticamente sei uno destinato. Io sono Leonardo Vieira. C'è questo cambiamento, insomma, che ha portato a Torlina. Prima di collaborare, a me mi hanno proposto anche di andare fuori, perché tu mi dici, te ne vai. Sono voci che provengono da un altro mondo. Salgono minacciose, stordiscono. A volte arrivano sfuggenti, all'apparenza innocue. A volte sono volutamente cariche di presagi. Nascondono sempre qualcosa, portano sempre un messaggio. Tutto è messaggio nella loro parlata, anche i dettagli che sembrano più irrilevanti, i gesti che accompagnano prendono il posto delle voci, anche i silenzi. È un coro inquietante che ho ritrovato nel mio taccuino. Quelle parole e quei discorsi sono diventati i miei appunti. Sono i mafiosi che raccontano la loro Sicilia, parlano di moralità e di famiglia, di affari e delitti, di regole, amori, amicizie tradite, di religione, di Dio, di soldi e potere, di vita e di morte. Parlano ancora di mogli e di figli, di padri, di sorelle o fratelli rinnegati. Spiegano chi sono e da dove vengono. Uno di loro dice: perché in Sicilia quello a cui non si può rinunziare è la considerazione che gli altri hanno per te. Questa è quella che loro chiamano la dignitudine. È un inventario di follie. Una combinazione fra il delirio e la logica più implacabile, fra la paranoia ed una spaventosa razionalità. Non è solo un codice, non è solo un linguaggio quella di mafia. È esercizio di intelligenza, esibizione permanente di potere. Ogni riflessione è un calcolo, ogni modo di dire svela una natura di criminali molto speciali. Questo è il resoconto di viaggio nei territori mafiosi. È una raccolta dei loro pensieri e dei loro ragionamenti. Parole d'onore. Io sono stato fatto uomo d'onore che ero molto giovane, direi bambino. Ma non è che uno la mattina si sveglia e dice: da oggi faccio parte di Cosa Nostra. No, Cosa Nostra si appresta a fare un uomo d'onore solo dopo averlo sperimentato. Ti osservano, ti allevano, ti crescono, ti insegnano a sparare e a uccidere. E poi ci sono quelli che entrano in Cosa Nostra col destino di diventare capi. Ai miei tempi la mentalità mafiosa si assorbiva senza saperlo. La mafia era scolpita sul volto della mia gente, era nella polvere del mio paese. La fantasia di un bambino si accendeva per certe cose. Arrivava quello e si baciava a tuo padre. Arrivava quell'altro e si baciava pure lui con tuo padre. Oggi è normale, assolutamente normale, che due uomini che si conoscono, che sono intimi, si bacino in certe occasioni. Ma ai miei tempi questo non succedeva. Gli uomini si inchinavano, si salutavano, si sorridevano per esprimersi simpatia, ma non si baciavano. Questa baciata non era una cosa normale. Quando due uomini si baciavano, la cosa aveva un sapore equivoco. Nessuno pensava che era così normale. Io ho imparato a conoscere la mafia quando ho visto mio fratello più grande, che era un uomo d'onore, che si baciava anche lui con uomini d'onore, perché gli uomini d'onore si baciavano, erano gli unici che lo facevano. E allora, quando io vedevo uomini d'onore che si baciavano, ma allora non sapevo che erano uomini d'onore, e restavo a bocca aperta e mi chiedevo, mi arrovellavo. E il primo passo per diventare uomo d'onore è quello di avvicinato. Uno viene frequentato per capire se è un carabiniere o no. Se uno ha un fratello magistrato o poliziotto, non può diventare uomo d'onore. Poi si accertano se in famiglia ci sono corna, e insomma, se c'è gente buona. Nel nostro ambiente, se uno ha un padre infame, una madre buttana o una sorella malandata, non può entrare in Cosa Nostra. Dopo un periodo di avvicinamento che può durare da 1 a 5 a 20 anni, qualcuno ti dice che è arrivata l'ora. Quando ti chiamano, tu sai già dove stai entrando, perché hai già servito questi uomini, sai perfettamente qual è il discorso. Di solito la riunione per affiliarti è come una grande festa alla quale partecipano tantissime persone, e in quell'occasione c'è il giuramento, somiglia ai 10 comandamenti: non guardare la donna d'altri, di sempre la verità. Con un ago ti pungono il polpastrello di un dito e poi ti danno in mano la santina con la Madonna dell'Annunziata, la protettrice di Cosa Nostra. La macchiano col tuo sangue, le danno fuoco e tu te la passi da una mano all'altra e ripeti: come carta ti brucio, come santa ti adoro, come brucia questa carta possa bruciare la mia carne se un giorno tradirò la Cosa Nostra. Poi, dopo che ti hanno combinato, ti dicono: lui è come a noi e questa è la Cosa Nostra. Noi siamo uomini d'onore, gli altri sono uomini qualsiasi. Siamo l'elite della criminalità, assai superiori ai delinquenti comuni. Siamo i peggiori di tutti. Mafia. Per tanto tempo non se ne parla. Dà fastidio quella parola, disturba, irrita. Letteratura. Soltanto pessima letteratura. Tutte invenzioni dei giornali del Nord, protestano i principi del Foro Palermitano. All'inaugurazione degli anni giudiziari il vocabolo è letteralmente scomparso dalle relazioni dei procuratori generali. Fino a qualche tempo fa la mafia c'era e non c'era. Gerlando Alberti, detto Upaccarè, uomo d'onore della famiglia dei Danni Sinni. Per lei mafia che cos'è? Ma mi pare una marca di formaggi. Sua Eminenza il Cardinale Ernesto Ruffini, Arcivescovo di Palermo. Per lei, mafia, che cos'è? Ma, per quel che ne so io, un tipo di detersivo. Signora Ninetta Bagarella, moglie di Salvatore Riina, per lei, mafia, che cos'è? Un fenomeno creato dalla stampa per vendere più giornali. Signor Luciano Liggio, per lei esiste la mafia? Ma se esiste l'antimafia. Mafia e antimafia. O non se ne parla mai o se ne parla troppo. Delitti eccellenti, mandanti invisibili. Tante stragi, mai testimoni. Tutto è mafia o niente è mafia. Agli italiani l'ha fatto conoscere Leonardo Sciascia con Il giorno della civetta. Era il 1961. Corleone, paese siciliano a 56 chilometri da Palermo. I corleonesi più famosi: Bernardo da Corleone, santo; Francesco Paolo Nasce, letterato; Pippo Rizzo, pittore; Madre Teresa Cortimiglia, fondatrice dell'ordine delle suore francescane di Santa Chiara; San Leo Luca, abate basiliano; Bernardino Verro, sindaco socialista assassinato dalla mafia; Placido Rizzotto, sindacalista assassinato dalla mafia; Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Vito Ciancimini, mafiosi. Mario Puzzo, l'autore del Padrino, chiama il protagonista del suo romanzo Vito Corleone. Vito come Ciancimino, Corleone come il paese. L'ho scelto primo perché lo amo, e l'amore non guarda tante cose. Poi perché ho in lui stima e fiducia. Io amo Totò Riina perché lo ritengo innocente. Lo amo nonostante la differenza di età. Lo amo perché la corte di assise di Bari mi ha detto che Salvatore Riina, assolto con formula piena da tanti delitti, non si è mai macchiato le mani di sangue. Meglio parola e chi da conserisci. E ai pentiti ci viene facile accusare Salvatore Riina. E così c'hanno più case, più soldi, più villa, più benestare. E allora Riina è mandante, Riina fece questo. Glielo voglio dire, signor Presidente. Camminano a braccetto e si tengono mani per mani e dicono bugiarderie questi pentiti. Quello che dice uno, dicono tutti gli altri. Una specie di fotocopia, eh. I pentiti sono un'arma troppo pericolosa. Fanno quello che vogliono e io sono il parafulmine di queste qua. Scaricano tutto su questa persona e così sono più creduti. Ecco perché mi accusano. Parlano di Riina e alzano la pagella. I pentiti non sono rocolato. Sono una manata di indegni. Io li chiamo così, pentiti, con il mio dialetto, perché sono un secondo elementare e sono un povero analfabeto. Una volta c'erano le lettere anonimi, ma ora che non sono più valide e vengono cestinate, si sono creati questi pentiti. Che cosa fanno? Una volta la lettera non era firmata. Questi si firmano e sono tutto un abbraccio, si prendono i mesati, gli stipendi. No. L'altro giorno leggevo un libro, mi pare che era del Cardinale Martino, e mi pare che diceva: Dio, dove andiamo? Ma signor Presidente, l'Italia con questi pentiti dove deve andare? Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta ha viaggiato troppo. È stato a Milano, è stato a Torino, è stato in America, è stato in Brasile. Vette un mondo e ci scattò il cervello. Ha visto il mondo e gli è scoppiato il cervello. Troppe invidie, troppe tradimenti, troppe cose tinte. E tu, Mutolo, sei un grandissimo spionaggio. Gasparino, Gasparino, e torna a fare il bravo ragazzo. Sì, signor Presidente, io lo conosco a Gasparino perché eravamo in carcere insieme. Ma lui era un raggiuncolante di giornata, andava rubando da qua e da là. Eravamo in cella insieme, andavamo all'aria, a passeggio. E poi, se non ricordo male, la mamma di Gasparino in quel periodo era in manicomio, quindi era pazza, poverina, e quindi pure lui è un povero diavolo. Gaspare Mutolo è quella persona che ogni volta che l'arrestano lo trovano con le mani nel sacco che fa gioca. E fa sempre gioca. È un bellissimo giochiere. E questo è Gaspare Mutolo. Spioni, muffuti, infamoni, tragediatori e cantanti, carabinieri a cavallo, confidenti di questura, ammalati di sbirritudine, vomitini, scatascini e lienti di panza. Ecco come chiamano i pentiti a Palermo e in Sicilia. È una persona educatissima, Salvatore Regina, è molto umile, apparentemente docile. Io non l'ho mai visto arrabbiato, qualche volta l'ho visto con il colorito un poco più acceso, ma mai sgarbato o aggressivo. E c'ha quell'espressione così buona e che uno ci parla e pare un predicatore. Quel viso così bello. E purtroppo questi sono i visi che ingannano. Di questi in Serillo non ne deve restare più neanche il seme. E questo lo diceva lo zio Totò. Un altro viso che inganna è quello di Michele Greco, che ha saputo prendere in giro le persone più feroci di Palermo con quella sua faccia bella. Andava dicendo: appena parte la prima scopettata a Palermo succede un macello. È un grande traditore, Don Michele, il papa della mafia. Ecco i visi che ingannano. L'acqua nel pentolone è impregnata di aromi per stemperare il forte sapore della carne. Carote, gambi di sedano, patate, pomodori secchi, foglie di prezzemolo. L'acqua si cambia 3 volte. L'ultima è per la cottura della minestra che precede i pezzi di picurazza. Antica ricetta dei pastori della Valle del Belice, la picurazza vugghiuta, la pecora bollita, torna spesso nei racconti sulle mangiate degli uomini d'onore. Qualcuno dice che le massime aspirazioni di un siciliano sono 3. Mangiare carne, cavalcare carne e comandare carne. E quando dobbiamo ragionare se spegnere qualcuno o avvicinare qualcun altro, noi ci organizziamo sempre quell'avvenimento che in siciliano si dice schiticchio o schiticchiata. Per noi altri la tavola è un luogo sacro. Mangiare è un rito. Prima ci facciamo la mangiata e poi ci facciamo la pallata. E se uno parla con Salvatore Regina si domanderà: ma è mai possibile che questo è Salvatore Regina? Così buono. E lui è stato il primo a inventare il sistema che prima di uccidere a qualcuno lo invitava a tavola. C'è lo zio Totò che vuole mangiare con te. Ti deve parlare. E chi riceve l'ambasciata cema. Lo zio Totò lo fa mangiare tranquillamente, lo fa divertire, dopo mangiato lo strangolava e non se ne parlava più. Non gridava: tu hai fatto questo, tu hai fatto quello. No. E si mangiava, ci si divertiva, si uccideva e moscia andò per tutti. E questa è la novità che ha portato Salvatore Regina. Ma lo zio Totò ha portato anche un'altra novità. Io mi ricordo del Canuzzo e del bambino, del figlio del pentito di Matteo e di quando se ne sono liberati. Liberati tu Canuzzo! L'hanno sciozzato. E dopo 2 anni di prigione il piccino era debole e poi l'hanno buttato nell'acido. Noi altri l'acido lo tenevamo sempre da parte, i bidoni erano sempre pronti. E dopo qualche ora del Canuzzo si vedevano soltanto i piedini. Ci vogliono 50 litri di acido per sciogliere un corpo umano in una media di circa 3 ore. Il corpo si scioglie lentamente e rimangono solo i denti. A questo punto si prendono i resti e si vanno a buttare da qualche parte. Spesso nel torrente che scorre vicino a San Giuseppe Iato. L'acqua del torrente è la stessa che disseta a tutta Palermo. E infatti noi ai palermitani che ci sfottevano perché eravamo contadini rozzi ci andavamo a dire: e perché voi allora bell'acqua che vi bevete voi a Palermo? E a Palermo le vetrine luccicano di oro, le porte delle gioiellerie sono sempre aperte, un vicolo scivola verso il mare e il porto della Cala, dall'altra parte è già vucceria, il mercato. Qui è vietato rubare, qui è vietato rapinare, qui è vietato delinquere. I gioiellieri non hanno mai paura. Pagano, pagano tutti. Olivari, polipari, baristi, tabaccai, carnezieri, pagano gli ambulanti con il carrettino del pane con la milza e quelli con le panelle, la farina di ceci fritta nell'olio bollente. Pagano le vecchie buttane nascoste nei bordelli fra San Domenico e le rovine della Seconda Guerra. Pagare il racket si dice mettersi a posto, è il pizzo a Palermo. L'estorsione è tutto per Cosa Nostra, più del traffico degli stupefacenti, più degli appalti, più dei piccioli. È attraverso il pizzo che Cosa Nostra manifesta se stessa. Per lei è come l'aria per respirare. Le estorsioni sono una cosa che vanno benissimo a Palermo perché la gente ha... molto educata nel pagare. Hanno quella mentalità per stare tranquilli. Io quando sento di un imprenditore o di un commerciante che non paga e mi scianizzo, perché in fondo hanno anche qualche vantaggio. Primo, perché si instaura un rapporto di amicizia tra quello che va a prendere la mesata e loro. E poi perché sono garantiti. Se succede qualche furto, quelli dell'ambiente mafioso si daranno da fare per fargli restituire la roba rubata. E se qualcuno combina una truffa, c'è gente a disposizione per fargli restituire i soldi. Quindi logicamente uno non è che ci perde soltanto, c'è anche una questione di dare e di avere. Via Roma. Pagano tutto indistintamente a partire dalla stazione centrale fino ad arrivare al primo semaforo. Bar Cialde non paga perché è considerato il bar della polizia. Rione Capo. Pagano. Vanificio Puccio. Farmacia Votturno. Gance Sedie. Paga quel grande negozio di biancheria che c'è all'angolo con la via Votturno e Teatro Massimo. Paga la parrucchiera della Traversa e paga la casa di appuntamento di una certa Giulia. Vucceria. Pagano tutti i fruttivendoli indiscendamente, Boglia de Pane, Panificio Garella, e pagano tutti i pescivendoli indiscendamente, Polleria Signora Pina, la polleria della signora Valente paga, Tabaccheria Silvio paga, e Babocceria paga, Baccicale paga, Bar Caterina paga, Bar Corona non paga perché appartiene a Giuseppe Corona, detenuto in carcere per omicidio. Rosticceria Piazza Valverde paga, e Cianco Pane e Mezza, detto Vastidario paga, e così io facevo la messa a posto. E sono i Borboni che costruiscono la fortezza fra il mare e le casupole del Borgo Vecchio. Scelgono un pianoro dove crescono gli chardon, i cardi spinosi per le bestie da suono. Il nome Ucciardone viene da lì. Dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa il Grand Hotel della cupola mafiosa. Sono pochi i palermitani a non conoscere l'indirizzo. Via Enrico Albanese, numero 3. E la settima sezione, quella dell'uomo d'onore. La settima sezione è a terzo piano, dove gli altri detenuti non ci vanno mai. È praticamente un carcere nel carcere. Le celle sono sempre aperte. Parlare di celle è un modo di dire. I secondini mischiati a noi, l'ora d'aria dura una mattinata intera. Noi altri all'infermeria ci andavamo a fare le nostre riunioni. Noi altri non siamo mai andati a mensa, abbiamo sempre avuto il mangiare nostro, il mangiare del governo non l'abbiamo mai toccato, abbiamo sempre prenotato i pasti nei migliori ristoranti. A me molta gente mi è venuta a trovare quando era Lucciardone. Pure da tanti. È venuto Gaetano Badalamenti e Sabro Zoccobono, sono venuti i Vennengo, i Ganci, Totò Scaglione. Ora tutti i nomi non me li posso ricordare, ma anche i documenti ci chiedevano. Un giorno vado alla sala colloqui, arrivo là, un bordello. Mia zia Mariella che se la prende con mia moglie ci dice: ma perché a tuo marito sì il colloquio e a mio no? E allora io ci dico: ma levate a me e metteteci a mezzo Ignazio. E che dovevo fare con quella scassa minchia di mia zia? E me ne sono andato a fare una mangiata di aragoste all'ufficio matricola. No, per me Lucciardone non è stato un carcere, ma una belleggiatura. Articolo 416 bis. Associazione di tipo mafioso. Chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone è punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono tale associazione sono perciò solo puniti con la reclusione da 4 a 9 anni. Signor Campo, quindi lei si professa innocente? Sì, signor Presidente, io mi protesto innocente del reato di associazione mafiosa perché non ho mai delinquito. Devo però dire che sono nato e morirò mafioso se per mafia si intende come io intendo: fare del bene al prossimo, dare qualcosa a chi ne ha bisogno, cercare lavoro per chi non ne ha o prestare soccorso a chi ha difficoltà. In questo senso sono stato, sono considerato e mi considero mafioso. Io non ho mai prestato nessun giuramento per aderire alla mafia. Io sono nato mafioso. Signor Genco Russo, di lei dicono che è il capo della mafia. La gente dice che io sono un uomo molto potente e molto famoso. Io dico solo che sono il capo della mia famiglia. Non sono né ambizioso né vanitoso. Sono nato così, niente sogno, senza scopo mi muovo. La gente dice che io parlo poco per discrezione. No, io parlo poco perché poco so. Abito in un villaggio a Palermo, ci vengo del rado, ho pochi amici e poi ormai sogno vecchio. Non parliamo di mafia, parliamo di amicizia. Signor Calzetta, conferma quanto disse in istruttoria, e cioè che Salvatore Riina sorrideva sempre e beveva champagne anche mentre commetteva un omicidio? Non me lo ricordo. Lei, Calzetta, conosce Michele Greco? Non me lo ricordo, mi fa male la testa. Ricorderà se una persona la conosce o no. E c'è quando me lo ricordo e c'è quando non me lo ricordo. Sono caduto e ho sbattuto la testa. Ricorda quando ha sbattuto la testa? E chi se ricorda? Ieri l'aveva già sbattuta la testa? E non mi ricordo, mi fa male la testa. Quindi lei si sente male? Non mi ricordo. Signor Calzetta, ricorda come si chiama? Signor Presidente, sogno un povero sventuratiedo. Chi sono io? Non mi ricordo. Perché non ha mai chiesto il porto d'armi per la pistola a tamburo che le hanno trovato addosso? Ah, ci sto pensando, lo chiederò al porto d'armi. Quante pallottole l'hanno colpita? E più di 60, mi pare 60 c'è. Lupara, pallettoni? Ah, non lo so. Quante ne ha ancora in testa? E 3 mi sono rimaste nel cranio. Senta, Giaconia, ma qualche sospetto doveva pure averlo avuto per una sparatoria di questo genere. È vero che sono stato colpito da più di 60 colpi alla schiena, ma sarà stato sicuramente per sbaglio. E allora a chi erano diretti i colpi? Ma c'era tanta gente. Aveva timore di essere aggredito? Escludo di avere mai avuto dei timori del genere. Per quale motivo? Ha detto al giudice istruttore di non avere mai conosciuto Antonino Sorci e Angelo La Barbera. Non riesco a spiegarmelo. Io sono stato colpito da più di 60 colpi alla schiena. Può essere. Anzi, ne sono certo che sono stato tradito dal mio stato di salute. C'è una certezza che non abbandona mai l'uomo d'onore. Lui non sarà mai condannato. La condanna non è il carcere. Il carcere va sempre fatto senza lamentarsene e con dignità. Il carcere è provvisorio. La condanna è definitiva. Gli uomini d'onore avvicinano, parlano, aggiustano e buttano il procedimento in nullità ed escono sempre presto dal carcere. Un tempo i procedimenti che si celebravano finivano sempre con la stessa sentenza: assoluzione per insufficienza di prove. Che cosa si intende per aggiustamento di processo? Si intende, ho parlato con il presidente, ho parlato con il testimone, ho parlato con il commissario, ho parlato con la giuria. Questo è aggiustamento di processo. Uno ci dice all'avvocato, ma com'è quel giudice? E l'avvocato ti dice chi lo può conoscere. Noi altri ci rivolgevamo sempre a un amico che viveva per aggiustare i processi. E lui sapeva tutto della vita dei giudici, di chi erano parenti, da dove ci si poteva arrivare e tutto il resto. Poi si andava da presidente, da giudice all'atere, una soluzione si trova sempre. Io mi ricordo di uno della corte d'appello che in cambio di un favore mi ha chiesto di avere pulito il pavimento di casa sua. Era macchiato. E tutto quello che mi ha chiesto. Sua moglie ci aveva quel problema ed io gli ho risposto che c'avevo un amico specializzato in quel tipo di lavori. Perché nessuno dice voglio i soldi e vogare dire voglio tanto. E poi sono cose che succedono così. E si trova sempre una maniera alternativa per chiedere un regalo. Quando un nuovo magistrato arriva in città, un imprenditore si fa avanti e si preoccupa di cercargli la villa col giardino, insomma quello che lui vuole o ha bisogno. E c'è chi vive e sceglie la strada di mezzo, c'è chi ci sta, c'è chi non ci sta e c'è chi muore. C'è chi ci sta, c'è chi non ci sta e c'è chi muore. Pietro Scaglione, procuratore capo della Repubblica di Palermo. I colonnesi gli sparano il 5 maggio 1971. Scaglione è il primo magistrato ucciso in Italia nel dopoguerra. Cesare Terranova, consigliere istruttore a Palermo. È Totò Riina che il 25 settembre 1979 dà l'ordine di farlo fuori. Gaetano Costa, procuratore capo della Repubblica di Palermo. Sono gli Inserillo di Passo di Rigano a ucciderlo il 6 agosto 1980. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sostituto procuratore della Repubblica di Trapani. È solo a indagare su Cosa Nostra. Lo fermano a colpi di mitraglia il 25 gennaio 1983. Rocco Chinnici, consigliere istruttore a Palermo. Un'autobomba lo fa saltare in aria il 29 luglio 1983. Ancora i Corleonesi. Alberto Giacomelli, presidente di sezione al Tribunale di Trapani. Il 14 settembre 1988 è ucciso dai supremi capi di Cosa Nostra. Antonino Saetta, presidente di sezione della Corte d'Appello di Palermo. Giudica colpevoli i killer di un capitano dei Carabinieri e Totò Riina giudica colpevole lui. Muore il 25 settembre 1988. Rosario Livatino, sostituto procuratore ad Agrigento. è la mafia di Palma di Montechiaro che ordina l'omicidio il 21 settembre 1990. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, 23 maggio 1992. Paolo Borsellino, 19 luglio 1992. Tutte disgrazie. E adesso, per ogni anniversario, c'è tutto questo cancan, questa pubblicità. I morti si ricordano in silenzio. Dovrei vergognarmi. I miei figli e mio marito dovrebbero vergognarsi. E di che cosa? Non sono stati loro. Se lo Spirito Santo ci illumina la mente e la illumina ai giudici, loro non saranno condannati. Io sono orgogliosa dei miei figli e di mio marito. I miei li ho tirati su bene. Sono tutti timorati di Dio. Su di loro fesserie, dicono. Solo fesserie. Volete sapere qual è la verità? La verità è che la legge non è uguale per tutti, ma Dio sa bene come stanno le cose. Io sono anche una dama di carità. Io sono una persona umana. Tutti hanno una Bibbia e tutti pregano. In tasca hanno sempre un santino, l'immagine di un Cristo o di una Madonna. Sono religiosissimi e ostentano la loro devozione. Il Papa della mafia, Michele Greco, ha sempre in mano un Vangelo e due breviari. Nella sua cella recita la liturgia delle ore, i salmi e la lode mattutina dell'ora terza, dell'ora sesta, dell'ora nona. I vespri e la compieta, che è la preghiera della notte. Dell'umanità sono certi film, film di violenza, film di pornografia. Se per esempio il pentito Totuccio Contorno avesse visto Mosè invece del Pacino e non avrebbe calunniato nessuno, ed io non sarei qua. Invece purtroppo il pentito Totuccio Contorno ha visto il Pacino, gli è piaciuto e io sono qua. La violenza non fa parte della mia dignità. La gente mi accusa perché il mio nome fa cartellone. Perché se anziché chiamarmi Michele Greco, io mi chiamasse per così dire Michele Roccapennuzza, e non sarei qua. Ditemi voi in che cosa io avrei mafiato. Questo era scritto sulla tomba del mio padre. E dimostrò con le parole e con le opere che la mafia sua non fu delinquenza, ma fu rispetto della legge dell'onore, difesa di ogni diritto, grandezza d'animo. La mafia sua fu amore. Mi hanno descritto come un Nerone, come un Tiberio, ma io nella mia vita non ho mai preso nemmeno una contravvenzione, perché ho sempre avuto la buona educazione di sapere parcheggiare bene anche la macchina. Mi chiamano il Papa, ma certo io non mi posso paragonare ai papi per dottrina, cultura o intelligenza, ma per la mia coscienza serena e la mia profonda fede mi posso anche sentire pari a loro, se non superiore. Io nel futuro ci spero sempre. Io ho la pace interiore, io ho una grande pace interiore, che se anche mi porteranno nel sotterraneo con le catene ai piedi, io sprezzerò sempre serenità. La calunnia è arrivata quando sono arrivati i primi uomini sulla terra ed è stata sempre portatrice di atroci conseguenze. A me mi hanno rovinato le lettere anonime, un anonimato cieco e cattivo. E adesso, con il vostro permesso, vorrei farvi un augurio. Io vi auguro la pace eterna a tutti voi. Ma queste non sono parole mie, ma parole di nostro Signore. E scusate, ma la pace e la serenità sono la base fondamentale per giudicare. Io vi auguro che questa pace e questa serenità vi accompagnino per il resto della vostra vita. Benedetto Santa Paola frequenta l'oratorio di Santa Maria delle Salette. Sogna di fare il sacerdote e sceglie di fare l'assassino. Calogero Vizzini ha due fratelli preti, un cugino parroco e due zii vescovi. Devoto è Luciano Liggio, devoto è Piddu Madonia, devoto è Filippo Marchese, devoto è Pietro Aglieri, devoto è Bernardo Provenzano. Nel suo rifugio, sotto la montagna dei cavalli, sono state trovate 8 santini di Maria Santissima Addolorata, 10 santini di Maria Santissima delle Grazie, 9 santini del Sacro Cuore di Gesù, 8 santini del Cardinale Pietro Marcellino Corradini, un quadro della Madonna delle Lacrime di Siracusa, un quadro di Maria Regina dei Cuori, Maria Regina delle Famiglie, un santino di Bernardo da Corleone Cappuccino e 73 santini con la scritta Gesù, confido in te. Uno dei pizzini di Bernardo Provenzano a Luigi Ilardo. Io con il volere di Dio ti dico che non devi screditare tutto quello che ti dicono e nemmeno devi credere a tutto quello che ti dicono. Quindi, con il volere di Dio, ti prego di essere calmo, retto, corretto e coerente. L'altro è alla moglie Saveria. Con il volere di Dio, carissimo amore mio, ho ricevuto il tuo scritto e leggo che stai bene. Con il volere di Dio ho risposto alla tua lettera. Quello che è destinato da Dio non si può cambiare, però il Signore ci deve dare la forza di sopportare. Quando gli uomini d'onore parlano delle loro mogli, ti dicono sempre tu la devi rispettare. E per rispetto non si intende il rispetto normale, ma rispettarla a letto. Picchi chiddu chi si fa chi buttane, un si fa chi mucchieri. Nella famiglia di Porta Nuova c'erano 3 persone, sto parlando di uomini d'onore, che noi lo sapevamo che ci avevano delle amanti. Noi, quelli di quella famiglia, la chiamavamo la famiglia degli spazzini, perché non avevano nessuna moralità. Noi all'immagine ci abbiamo sempre tenuto, e avere dell'amante comporta dei problemi, e Cosa Nostra non vuole di quei problemi. Io mi ricordo che Gaetano Badalamenti era un accanito sostenitore che bisognasse essere totalmente dediti alla famiglia, e perché questo dà molta sicurezza a una moglie. Le donne ci stanno bene nella mafia. Le donne sono attratte dalla mafia fino a quando non vengono scottate dal dolore. Fino ad allora ci stanno dentro molto bene. E poi non bisogna dimenticare che la propria moglie finisce con l'intuire sempre tutto. E quello che non riesce a dedurre da sola se lo fa dire dalle sorelle, dalle cognate o dalle amiche, che spesso sono anche loro sposate a uomini d'onore. Le donne palermitane poi sono speciali, fanno finta di non sapere niente e ne sanno più dei mariti. Ci sono donne, mogli o mamme di uomini d'onore degne di ammirazione per i sacrifici che fanno per i loro uomini. Se sei un assassino ma fedele e innamorato, tua moglie è disposta a qualsiasi sacrificio per il suo uomo. coraggio. E l'avevo allevata, signor presidente. Rosaria era usato mio, usango mio. Rosaria era l'unica cosa pulita che avevo. Io, Rosaria, la volevo portare all'altare. Pensavo solo a lei, alla mia Rosaria. E ci eravamo conosciuti quando avevo 13 anni. E poi un giorno mio fratello viene e mi dice: Pasqualiddu, tu questo matrimonio vuoi rovinare a te, alla tua famiglia e a tutti i tuoi parenti per 7 generazioni. Rosaria è una figlia di genitori separati. Beh, però poi dopo qualche giorno torna e mi dice: ho trovato la soluzione. Tu non puoi sposare una figlia di genitori separati, ma un'orfana sì. E mi propose di uccidere suo padre. E se non lo potevo fare io, l'avrebbe fatto lui per me. E, signor presidente, non mi è piaciuto tanto. E come avrei potuto guardare Rosaria negli occhi? Come avrei potuto abbracciarla o baciarla? C'è da parlare. E fui duro e cattivo. E ci disse di non cercarmi mai più. Io ci volevo bene, Rosaria. E so tornato mo con una volta, cantammo insieme l'umotivo antico. Passa il tempo e il mondo sa vuota, ma amore vero no, non vuota vico. De te bellezza mia manna murai, si tagli cuore dinanzi alla fontana. L'acqua la dinta non si secca mai, è ferita d'amore non si sa. Non si sana casa nata, se se fosse gioia mia, mentre staria barsamata a guardarte io non staria e te dico. Palermo, 14 metri sul livello del mare, latitudine 38 gradi, longitudine 13 gradi, 665.434 abitanti, è la quinta città d'Italia dopo Milano, Roma, Napoli e Torino, la 31esima in Europa. La sua patrona è Santa Rosalia. Indifferente Palermo. È una città fatta di lapidi, altarini, mazzi di fiori ad ogni angolo di strada. 100 omicidi nel 1981, 100 omicidi nel 1982, 100 omicidi nel 1983. Si sparano fra di loro, questo dicono i palermitani. Ogni volta che c'è un cadavere per terra corrono tutti a vederlo. Prendono i figli per mano, li sollevano, se li mettono sulle spalle. Talia, Talia, guarda. Guarda, l'odore dolciastro del sangue nell'aria, le mosche, volti stravolti degli ammazzati. È opulenta Palermo. Non è ricca, è sfrenatamente ricca. Palermo è la città d'Italia dove si vendono più gioielli. Tutto ciò che è costoso, esclusivo, firmato. È ostile Palermo. Ci sono due o tre magistrati che sfrecciano nelle auto blindate per le vie della città. Sirene, rumori. Ci sono cittadini indignati che scrivono lettere al giornale di Sicilia che volentieri pubblica. Una è della signora Patrizia e dice: tutti i giorni, non c'è sabato o domenica che tenga, al mattino, nel primissimo pomeriggio e la sera, senza limiti d'orario, vengo letteralmente assillata da continue e assordanti sirene di auto che scortano i vari giudici. La signora Patrizia è vicina di casa del giudice istruttore Giovanni Falcone. La mafia fa schifo. Campagna pubblicitaria della regione siciliana. La mafia fa schifo. I cartelloni sono vistosi, le scritte nere e grandi. La mafia fa schifo è scritto dappertutto, sui muri dei palazzi, nelle piazze, agli angoli di ogni strada. La mafia fa schifo è scritto dappertutto in Sicilia. La mafia fa schifo è una battuta pubblicitaria che piace anche ai mafiosi. Dalla mafia non esiste alla mafia fa schifo sono passati soltanto 20 anni. Oggi è una mafia che si nasconde dietro gli slogan dei propri nemici. È una mafia che ha scoperto il valore dell'antimafia. L'antimafia è diventato un capitale anche per Cosa Nostra. Il mafioso antimafioso. Il massimo. Revisione sentenza maxi processo, annullamento decreto legge 41 bis, niente censura posta familiari, chiusura supercarceri, e levare tasse carburante come osta. E non guardate sempre solo a me. Guardatevi dentro anche voi.